want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buonasera a tutti voi in contatto con Radio 24 per il soundcheck, la prova del suono. Buonasera a tutti da Gigi Telesforo, buonasera anche al nostro Francesco Tromba che ha indossato la maglietta, una maglietta antica della nostra nazionale con la scritta Baggio. Come mai? Perché Baggio è uno dei miei idoli e forse uno degli ultimi, diciamo, numeri 10 veri e propri. Veri e propri. Chissà chi indosserà la maglietta numero 10 questa sera con l'Inghilterra. Anzi, abbiamo anche il tempo di concludere la trasmissione, andare a mangiare qualcosa, mi auguro non di calabrese perché non ce la faccio più, e poi di tornare a casa per vedere la partita. Ma oggi, mio caro Francesco, visto che inizia l'avventura mondiale per la nostra nazionale, io non potevo non dedicare un'intera puntata del nostro soundcheck in questo sabato alla musica brasiliana, e per fare ciò ho invitato quello che io considero ormai da molto tempo uno dei massimi esperti di musica brasiliana di Brasile, e vorrei dirlo anche di ragazze brasiliane, che è presente nel nostro paese. Vado a introdurvi un signore, una voce nota nel panorama radiofonico italiano perché da più di 10 anni conduce su Radio 1 un bellissimo programma intitolato Brasil, ovvero Brasil, con il quale ci istruisce sulle modalità e le novità della musica brasiliana qui da noi. Vado a presentarvi il mio amico Max De Tomassi, sono contentissimo che stai con noi. Max, benvenuto al Soundcheck. Molto buona noite, grazie. Sì, buonasera anche a te. Io tra l'altro dovevo ricambiare questo favore perché più volte sono stato ospite della tua trasmissione per parlare di musica brasiliana e di tutto quello che ci piace del Brasile. Tu sei appena tornato da due settimane a Rio de Janeiro. Allora dimmi, raccontaci subito l'atmosfera a Rio de Janeiro. Praticamente sei tornato, quindi i mondiali sono iniziati, come vivono i mondiali brasiliani? Beh, con una certa tensione, perché una gran parte della popolazione vorrebbe approfittare giustamente di questo momento in cui ci sono gli occhi puntati di tutto il mondo sul Brasile per cercare di rivendicare quelle che sono delle giustissime motivazioni, no? Per muovere il popolo intero, la sanità, l'educazione, tante altre piccole cose che servono ad un paese che sta andando avanti a livello esponenziale, sta crescendo a livello esponenziale sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista sociale, economico. Insomma, il Brasile ha il PIL che sta andando avanti sempre in positivo da 10 anni e più, quindi insomma davvero dei grandi risultati con tutti questi investimenti che il Brasile ha inserito nella Coppa. Avrebbero sicuramente potuto dare un occhio anche ad altre importanti rivendicazioni sociali, e per questo c'è questa tensione. Poi c'è l'interesse nei confronti del calcio, l'interesse nei confronti di quello che è lo sport nazionale e di quello che ha fatto conoscere il Brasile in giro per il mondo. La cosa curiosa del calcio, il calcio sembra che torni a casa quando vai in Brasile, no? Quando i campionati del mondo si realizzano in Brasile sembra che torni a casa, poi in realtà non è proprio così, perché come sanno tutti quanti il calcio è nato in Inghilterra. Però nessuno o pochissimi si sono chiesti come è arrivato in Brasile. Ricordiamo che parliamo della fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, adesso non so esattamente la data, ma il tempo è quello, non c'era internet, non c'era nemmeno Facebook. E come è arrivato questo calcio? Il figlio di un ricco imprenditore di San Paolo è stato mandato, come succedeva spesso, la borghesia lo faceva, a studiare in Europa, e lui andò a studiare in Inghilterra, e da Londra si portò indietro 2 palloni. E da quel momento in poi è iniziato il calcio in Brasile. Ecco, non so in Calabria cosa è successo con il calcio, come è arrivato il primo pallone in Calabria? Forse l'abbiamo inventato noi, perché cioè, si gioca tutti i giorni in tutte le piazze. È quello che succede in Brasile. Allora, Max, io vorrei farti ascoltare qualcosa che sicuramente conosci, una pubblicazione recentissima. Credo che questo sia il primo CD proprio stampato e pubblicato per il mercato nazionale, perché mi è stato regalato da Luciano Rebeggiani della Sony, proprio conoscendo la mia passione per Gilberto Gil e per la musica brasiliana. Questo è l'album nuovissimo di Gilberto Gil, si intitola Samba, proprio un album con il quale il grande Gilberto rende tributo a João Gilberto, al samba, alla bossa nova, suonando con pochi musicisti in studio di registrazione, dando vita a un album secondo me di grandissima classe, di grandissima eleganza, come non se ne sentivano da un po' di tempo. Eccolo qui, nuovissimo Gilberto Gil, il brano si intitola Eu Samba Mesmo, la pronuncia non è perfetta, dillo tu che sei più bravo di me. No, è molto semplice, è un sambo mesmo. È un sambo mesmo, Gilberto Gil, ha un soundcheck di Radio 24. Sai che vuol dire? Cioè, io non scherzo, sambo per davvero. A chi non gosta di samba non dà valor, non sa comprender. O samba quente, harmonioso, deliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Yeah. Ai, ai, ai, bah. Nuovo album per Gilberto Gil intitolato Samba, naturalmente qui al Soundcheck di Radio 24 con il nostro ospite Max De Tomassi, esperto di musica brasiliana, infatti proprio per questo da 10 anni guida Brasil su Radio 1, e sono contento anche di promuovere la tua trasmissione, perché dobbiamo aiutarci, perché parliamo di musica di grandissima qualità. Avevi già ascoltato Gilberto Gil in questa esperienza discografica? Guarda, in realtà l'avevo ascoltato in studio qualche mese fa a Rio de Janeiro, quando era già, diciamo, quasi pronto tutto quanto. L'album per intero ancora non l'ho ascoltato, e ovviamente è l'album di uno dei più grandi geni della musica brasiliana. Mi piace tantissimo la prefazione di Caetano Veloso di questo album. Caetano è innamorato di Gilberto Gil. I due non hanno mai nascosto le loro tendenze, diciamo, aperte, no? Dal punto di vista sessuale. E Gil non ha mai nascosto di essere attratto anche dai ragazzi, dagli uomini, così come Caetano Veloso, insomma, si sa che... Ma loro, visto che ci siamo, non hanno avuto una storia. Allora, io sappia no, però questo amore che c'è fra loro due sembra l'amore di due persone sposate da 60 anni, no? Che hanno già fatto nozze d'oro, nozze d'argento, e che stanno insieme perché si adorano, no? Pur non praticando sesso. Quindi è un amore non consumato, oppure una storia non consumata. Allora direi di ascoltare un'altra traccia tratta da Samba di Gilberto Gil. Il brano è un classico intitolato Opato, e Opato l'abbiamo sentito in tutte le salse, ma questa versione è di grandissima classe qui al Soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. Max De Tomassi e il suo Brasil presente qui al Soundcheck di Radio 24. Allora, mi hai detto che il PIL del Brasile è cresciuto enormemente. Una volta noi pensavamo più o meno tutti, quando andrò in pensione mi trasferirò in Brasile per aprire un bel baretto sulla spiaggia, una cosa che ormai non possiamo più pensare, perché i costi proprio della vita, del quotidiano, sono diventati impossibili anche per noi con l'euro. Difficilissimo quindi per la gente brasiliana vivere in questo momento, soprattutto nelle grandi città. Sì, c'è un po' un boom, no? Che in un certo senso ha deviato anche l'attenzione delle persone su quello che è poi la realtà. Ci sono dei prezzi nella vita di tutti i giorni, nella stessa alimentazione, che poi in Brasile è molto economica, tra l'altro in Brasile si mangia molto bene. Quindi secondo me al termine di questa kermesse, Confederation Cup, campionati del mondo di calcio e Olimpiadi, alla fine ci sarà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e il Brasile ritornerà nella normalità, o perlomeno io spero che in questi tre anni, in questi quattro anni, il Brasile sia, insomma, si sia incamminato verso una crescita normale, diventando un paese del primo mondo. Non dimentichiamo che fino a 15 anni fa il Brasile era veramente un paese del terzo mondo, un paese con grandissime difficoltà sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. Sì, invece il Brasile è autonomo perché ha tutte le risorse per poter vivere senza chiedere favori a altri paesi. È stato trovato un giacimento di petrolio un po' di anni fa, io penso intorno al 2002-2003, di fronte allo stato di Rio de Janeiro, e questo giacimento è lungo 800 km e va verso sud. È un giacimento un po' particolare perché dal momento in cui è stato trovato, il primo grandissimo dubbio era quello di riuscire ad estrarre questo petrolio. E il giacimento si trova a 2000 metri di profondità sotto il livello del mare, ma la cosa più curiosa e più difficile è che per arrivare al giacimento ci sono altri 4000 metri di crosta di sale, tant'è che il giacimento viene chiamato pre-sal. Quando è stato scoperto, il Brasile non aveva la tecnologia per poter raggiungere questo petrolio. Ora il Brasile l'ha raggiunto, quindi ha la tecnologia per forare questo giacimento, già si sta estraendo e nell'ottobre dello scorso anno è stata realizzata la più grande asta di idrocarburi che c'è mai stata nel pianeta Terra. Quindi il Brasile, diciamo che la benzina per la sua macchinetta ce l'ha. Ecco, ce l'ha. E poi il Brasile da sempre utilizza l'alcol per le macchine, alcol che viene ricavato dalla raffinazione della canna da zucchero, giusto? Questo ci ricorda che in Brasile non c'è solo la caipirinha per prendere un po' di energia, diciamo, per viaggiare, c'è anche l'alcol che viene utilizzato per le macchine. Che cosa sta succedendo discograficamente parlando in Brasile adesso? Ma come succede nel mondo, una grande rivoluzione con la decadenza delle case discografiche. I brasiliani stanno producendo moltissimo da soli e c'è anche una grande disponibilità nel scambiarsi informazioni, nel collaborare, nel realizzare album. La loro generosità continua ad essere grandissima. Recentemente ho realizzato un album per un'artista italiana, Susanna Stivali, una bravissima jazzista, e non si sono tirati indietro i grandi nomi della musica brasiliana come Francis Heim, come Chico Buarque di Holanda. Beh, questo perché tu li conosci personalmente, dai. Gli cucino pure, quindi alla fine. Cucini italiano però quando vai lì. Ovviamente, ovviamente. Allora, e un'altra grande produzione che arriva dal Brasile, quella realizzata dai fratelli Berman. Che cosa hanno fatto questi signori? Credo un grandissimo progetto che si intitola Studio Rio Presents The Brazil Connection, ovvero hanno tirato fuori dalle tracce originali di dischi con protagonisti, che ne so, Marvin Gaye, Billie Holiday, oppure Mel Tormé, Dave Brubeck, Carmen McRae e via dicendo, le voci, la traccia della voce è stata analizzata, filtrata, equalizzata, e poi intorno all'interpretazione originale questi signori hanno costruito, con alcuni fra i nomi più prestigiosi della musica brasiliana, l'impianto con il nuovo arrangiamento. E quindi credo che questo sia uno dei dischi del momento. Io ti vorrei far ascoltare per esempio questa versione di Lovely Day di Bill Withers nella versione proprio di Studio Rio con The Brazil Connection qui al soundcheck di Radio 24. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Max, che ti sembra questa produzione dei fratelli Berman, The Brazil Connection, con Bill Withers supportato da grandi nomi della musica brasiliana in una versione che non avevamo mai sentito di Lovely Day, così in puro stile bossa nova? Guarda, mi dà l'impressione come se in questo momento, no, suonasse una sorta di seleção brasileira dei grandi musicisti, no? E c'è tutta gente che ha lavorato con il grande maestro supremo Antonio Carlos Jobim, no? Paulo Braga alla batteria, lo stesso Mario Adnet, che è stato e ha lavorato tantissimo con Jobim, è stato il suo chitarrista, e, insomma, davvero dei grandissimi nomi della musica brasiliana, una Seleção Marcos Valle, in un album geniale, dall'idea geniale, no? C'è una cosa che vorrei, diciamo, focalizzare: quanto l'industria fonografica, questo è un album pubblicato da una major, e quanto l'industria fonografica internazionale, americana in questo senso, sia stata obiettiva, sia stata giusta, sia stata aperta nel liberare le voci di questi grandi nomi. C'è anche Marvin Gaye, cioè, ci sono i massimi esponenti della musica jazz e popolare americana. Anticamente non si usava, anticamente non sarebbe stato possibile. Hanno affidato al produttore discografico brasiliano, ad uno studio di Rio de Janeiro, la voce e il patrimonio mondiale della cultura musicale, per farne realizzare intorno un vestito totalmente diverso. È come se Marvin Gaye decidesse di sfilare alla scuola di samba. Al Sambodromo. È un'operazione discografica che si rifà al quello che fece Natalie Cole tantissimi anni fa, che decise di cantare finalmente con il papà, il grande Nat King Cole, e quindi dalla traccia originale di Unforgettable con Nat King Cole tirarono fuori la traccia originale, e quindi Natalie Cole ebbe la possibilità di poter duettare con il papà. Adesso è un'operazione che tecnicamente è più facile se la registrazione viene effettuata in digitale, però certamente tirare fuori dai nastri a 24 piste o addirittura da un master originale stereo, come nel caso della traccia che ascolteremo dopo con Billie Holiday, il lavoro è un po' più complesso, perché devi eliminare delle frequenze per tenere soltanto le frequenze della voce. Allora ascoltiamo un altro brano da questo studio Rio, e qui guarda, mi hai lanciato la palla, perché ti faccio ascoltare proprio Sexual Healing, il grande successo di Marvin Gaye, per studio Rio qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Avevamo parlato con Max De Tomassi, ospite qui del Soundcheck di Radio 24, la voce di Billie Holiday in You've Changed, nella versione di Studio Rio, questo album prezioso, credo che sia una delle produzioni più interessanti in questo momento. Come si può brasilianizzare musicalmente un po' tutto, un po' come il jazz, che a volte si permette di poter prendere canzoni del pop o di varia natura e renderle swing. È un tipo di operazione che ti piace, la trovi interessante, Max? Trovo che funzioni sempre tantissimo, trovo che poi i brasiliani ci vadano pesante, no? Nella trasformazione. Per esempio Marvin Gaye in Sexual Healing nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere letto in chiave pagode, no? Che è poi lo stile musicale delle classi meno abbienti di Rio de Janeiro. Però poi il negro torna alle origini, no? Perché quelle classi meno abbienti di Rio de Janeiro sono classi che vengono dall'Africa grazie all'arrivo degli schiavi, insomma, intorno al 1500. Quindi vedi che poi tutto quanto torna, no? Il mondo gira intorno a se stesso, e Marvin Gaye si è riappropriato della sua Africa. Ecco, tu parlavi del pagode, perché ricordiamo che il Brasile, essendo un paese immenso, è riconosciuto nel mondo musicalmente per samba e bossa nova, però ci sono molti stili. Sì, c'è questa capacità di fagocitare qualsiasi tipo di stile musicale per poi realizzarne uno che ha le caratteristiche della tradizione, ma che è brasilianizzato a tutti gli effetti. faccio l'esempio del reggae. Il reggae brasiliano è ancora uno stile che funziona e che è vivo. Gilberto Gil è il maggiore esponente del reggae. Del samba reggae. Del reggae. Samba reggae è un altro tipo di musica che viene da Bahia e che serve sostanzialmente a far ballare. È l'aumento dal punto di vista ritmico e delle battute del reggae, che apparentemente potrebbe essere un ritmo che si ascolta senza necessariamente essere ballato. Quindi samba reggae lo lasciamo ai Vecchi Sangallo, a Claudia Leici, che è la cantante della sigla dei campionati. Vecchi Sangallo è una delle mie, non posso dire una delle mie cantanti preferite, però è una donna splendida, tra l'altro una star, una sorta di Raffaella Carrà della nuova generazione brasiliana. Esattamente, una grandissima bella cantante. Grandissima bella cantante. E quanto le nuove generazioni brasiliane conoscono la tradizione della musica brasiliana? Quanto sono legate al bossa nova? La conoscono? Tanto, tantissimo. La bossa nova continua ad essere viva sia nella pratica che nei ricordi, perché i brasiliani non possono prescindere dall'atteggiamento che un vecchietto come João Gilberto ha avuto nei confronti della propria musica e della musica brasiliana. João Gilberto arrivò alla fine degli anni 50, quando i cantanti strillavano e cantavano canzoni quasi melodrammatiche, e decise di realizzare con Jobim e con Vinicius questa Chega de Saudade, che è una rottura con il passato, no? Chi è che non vuole rompere con il passato? Chi è che non ha un sentimento di rivoluzione dentro se stesso? João l'ha fatto dal punto di vista musicale, e questa rivoluzione è rimasta intatta nel tempo. È ancora il movimento musicale più rivoluzionario del pianeta. E allora gustiamo due veterani brasiliani, come il chitarrista, compositore e anche bravo cantante João Bosco, che festeggia i 40 anni di attività con una recente pubblicazione, e fra i vari ospiti c'è anche un poeta brasiliano come Chico Buarque de Holanda. Il brano si intitola Bom Tempo, qui al Soundcheck. O marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou, que vem aí bom tempo. Um pescador me confirmou que um passarinho lhe cantou, que vem aí bom tempo. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con la prova del suono di Radio 24. Dopo l'informazione ci stiamo preparando anche noi ad affrontare la prima partita della nostra nazionale contro l'Inghilterra. Questa sera siamo sicuri che a mezzanotte sono... Ecco, una cosa che dobbiamo dire, Max, dei brasiliani, che i brasiliani sono puntualissimi. Una cosa che mi ha sempre colpito in Brasile, tutte le volte che ci sono stato, è la precisione proprio al secondo degli aerei, degli autobus. Insomma, un paese che da questo punto di vista a grande rispetto per gli altri. Devo dire che hai colto esattamente la realtà brasiliana. Hanno ritmo non solo nella musica. È vero, gli aerei sono puntualissimi, gli autobus sono puntualissimi, quando chiami un tassista ti viene a prendere a quell'ora. Forse le persone sono un pochino più distratte da questo punto di vista. Se ti dà un appuntamento per prendere un drink alle 19, può arrivare anche alle 19.45, quello non è un problema, tanto tu comunque stai lì al bar, ti metti seduto, sgranocchi due Enagardi e bevi una caipirinha, questo è normale, non è che senza di me lo puoi fare lo stesso, no? O uno shop gelato, oppure uno shop gelato, che è la birretta gelata, tant'è che la birra non si vende se non è gelata, non ha potere d'acquisto la birra, noi non la possiamo bere perché ci viene mal di testa subito per quanto è ghiacciata. È vero, però è buona. Grande bevitore Chico Buarque de Holanda nel passato, sapevi, no? L'abbiamo ascoltato prima. Ma si portava proprio la bottiglia di whisky sul palco lui, come Vinicius pure. È vero, perfettamente. Adesso il Brasile sarà paralizzato durante gli incontri, soprattutto della Seleção, nel senso che per le strade veramente non gira nessuno, cioè anche i vigili urbani stanno a casa, si chiude proprio il paese. Sì, paese, Brasil está vazio na tarde de domingo, olha o sambão aqui é o país do futebol, cioè il Brasile è vuoto nel pomeriggio della domenica. guarda il Sambone, questo è il paese del calcio. Figurati durante i mondiali. Durante i mondiali, da questo momento in poi, secondo me, lì già stanno tutti quanti in fibrillazione. Ma gli artisti anche, per esempio Chico Buarque, appassionato di calcio. Chico, forse come primo desiderio in assoluto, sarebbe voluto diventare un calciatore, no? Lui non pensa alla carriera di cantante come seconda ipotesi. Il suo vero mestiere è quello del calciatore. Chico negli anni 70 ricevette come l'Uvas, come regalo dalla casa discografica del contratto che fece con la Polygram, un appezzamento di terreno in un quartiere molto distante dal centro di Rio de Janeiro che si chiama Recreio, e su questo appezzamento furono creati 3 campi di calcio. Su questi campi di calcio Chico Buarque, ancora adesso a 70 anni, Chico compirà 70 anni il 19 di giugno, e lui gioca 3 volte a settimana, e io ho l'onore e il piacere dal 1982 di giocare lì con lui, ed è un'esperienza meravigliosa. Ti dico solo che in quel campo di calcio hanno giocato i più grandi nomi del football brasiliano: Romario, Pelé sono stati a giocare lì, Ronaldinho, chiunque. Ma la fotografia che ritrae secondo me il momento di maggiore emozione, che è ancora in originale appesa al bar del campo, è la formazione del Politeama, la squadra di Chico Buarque Giollanda, di cui era presidente onorario il nostro compianto amico Sergio Bardotti, con Toquinho, pensa, aspetta, e i Oilers con Bob Marley, Chico Buarque. Che foto incredibile. La prossima volta che torni devi fare uno scatto e me la devi portare. Ce l'hai sul telefonino? E allora poi me la devo importare. Allora guarda, visto che sei anche te un appassionato di calcio, io ti faccio un bel regalo. Te lo posso fare un bel regalo? Ti regalo questa maglietta. Francesco, per favore, tira fuori la maglietta col numero 66 della nazionale brasiliana, però quella ipotetica creata da Sergio Mendes, che mi regalò questa maglietta durante un'edizione di Umbria Jazz, e io te la voglio donare con tutto il cuore, proprio per l'amicizia che c'è fra di noi. Muito obrigado. Vou utilizar como se fosse escalado pela seleção. Ecco, così al prossimo incontro con Chico Buarque la puoi sfoggiare. Numero 66 per il famoso Brasil 66. Ma noi non suoniamo Sergio Mendes, ma un signore argentino, pensa. È stato nostro ospite il nostro amico Natalio Mangalavite con il suo pianoforte, che celebra anche lui la sua passione per il calcio con un piccolo sfottone nei confronti del Brasile, perché questo brano intitolato Final do Mundo racconta la sconfitta del Brasile del 1950 contro l'Uruguay. E qui sono Natalio Mangalavite e Martin Brun in Final do Mundo. Jair, Cicinho, Augusto giocavano in Brasile. Soundcheck. Il suono della musica. Un pack sobe a ladeira do São Bento. Outro que desce a ladeira de Santana. Um pack sobe a ladeira do Bonfim. Outro que desce a colina da montanha. La regina della musica brasiliana, Gal Costa, dopo Elis Regina, però lo vogliamo dire, in Logos Pé, una composizione scritta per lei da Locua Kanza, chitarrista africano che noi abbiamo visto più volte in concerto, da Herbie Hancock, che ha suonato con Joe Zawinul, insomma un musicista molto apprezzato, che ha collaborato con Gal Costa per la realizzazione di un album molto bello di diversi anni fa. Gal Costa in questa puntata con ospite Max De Tomasi, proprio per celebrare la nostra passione per la musica brasiliana, per il Brasile, in occasione anche del primo incontro di calcio della nostra nazionale questa notte a mezzanotte, lì dove giocheranno esattamente? Manaus. A Manaus, ci sei stato a Manaus? Certo, tante volte. Una città pessima dal punto di vista estetico, non mi piace tanto. Quello hanno fatto giocare Italia e Inghilterra lì. Ho brutti ricordi perché insomma mi sembrava una città un po' decadente. Recentemente ci sono stato per realizzare un documentario, mi è piaciuto un po' di più. Molti sono preoccupati dal clima. Secondo me poi alla fine, insomma, ricordiamoci che noi giochiamo contro gli inglesi. Se noi ci preoccupiamo del clima, è gli inglesi che devono fare. Pare infatti che gli allenamenti della nazionale inglese siano stati realizzati utilizzando più casacche, proprio per abituarsi al caldo terribile del Brasile. È vero, ma il grande problema è l'ordine pubblico, no? Perché sono molti in Brasile ad essere preoccupati per l'atteggiamento degli hooligans che verranno a Manaus, che in queste ore stanno a Manaus. Però da quello che so attraverso i miei amici, so che la situazione è sotto controllo perché il governo dello stato di Manaus ha deciso di liberare la caipirinha, quindi praticamente per i tifosi inglesi è gratis la caipirinha in qualsiasi bar. Quindi come sedativo hanno già risolto. Hanno risolto. Parlavamo di Gau Costa, a Salvador de Bahia, passando in una zona molto bella, il tassista mi disse: qui abita Gau Costa, è ancora lì a Salvador? No, adesso abita a San Paolo del Brasile. No, ma sa tutto lui, eh? No, che fai, lo stalker proprio degli artisti brasiliani. No, Gal è un'amica mia su Facebook, ma amica vera, poi ci conosciamo da 30 anni, davvero, ci sono molto legato. Tra l'altro c'è un bellissimo episodio che ti vorrei raccontare. So che ha un caratterino bizzarro. Sì, è una donna con una certa personalità, è sempre un po' insicura su quello che canta, tant'è che questa cosa di Luco Acanza fu anche in un certo senso criticata da alcuni brasiliani, però secondo me fece una scelta buona. Questo album Oggi è bellissimo, è pieno di bellissimo, anche moderno per le scelte che aveva fatto lei in passato. È vero, molto moderno. Un po' di anni fa venne qui in Italia per duettare con Sergio Cammarieri al Festival di Sanremo, non so se te lo ricordi. Beh, lo ricordo benissimo. Io tra l'altro mi occupai immodestamente della versione in portoghese che lei cantò al festival e restammo da soli praticamente 4-5 giorni a Bordighera perché non c'era posto proprio nel cuore di Sanremo. Fu davvero una settimana deliziosa perché poi mangiamo sempre insieme, chiacchieriamo sempre insieme e una sera rientrando in questo albergo dopo le prove di Sanremo, in questi alberghi dove svernano le ricche signore di Milano e comunque del nord Italia, c'era un pianista di piano bar di colore che stava lì e suonava: guarda che cosa mais linda, mais cheia de graça, la menina che vem. E lei si avvicinò al piano e sorrise al pianista. Il pianista questo sorriso lo interpretò come mi piacerebbe cantarla. E quindi gli offrì il microfono e Gao cominciò a cantare Garota de Ipanema a Bordighera. E c'erano 8 vecchiette, tutte perfettamente truccate, che ascoltavano Gal che cantava e alla fine dell'esibizione il pianista ha tolto le mani dal piano, gli ha battuto le mani e ha fatto: tu puoi diventare cantante. Ma che meraviglia. Da Gau Costa allora torniamo alla musica. Questo è un best seller di tutti i tempi, Stan Getz e João Gilberto, guarda, presentalo te che sei brasiliano, vai. Para machucar meu coração. Ovvero? Per far male al mio cuore. È tipico dei brasiliani, devono sempre soffrire in amore. Tá fazendo ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão, uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Soundcheck, il suono della musica. È un gran piacere ospitare Max De Tomasi direttamente da Radio 1 qui al soundcheck di Radio 24. Non è bella questa cosa? No, io poi stanotte c'ho la trasmissione, quindi al termine della partita. E ovviamente ci sarà Brasile. Iniziamo con 2 ore di, diciamo, di ritardo perché prendiamo la linea da Manaus. E allora mi fai una telefonata così commentiamo la partita insieme? Con piacere. Non mi chiedere di venire a Saxarubra perché è un po' complicato a quell'ora e poi devo vedere anche l'umore perché non si sa come andrà a finire questa sera. No, secondo me va benissimo questo dialogo tra voi e noi, quindi adesso qui da voi e poi più tardi da noi. È un ponte che ci lega alla passione comune per la musica brasiliana. brasiliana, musica brasiliana che ha fatto il giro del mondo e che ha in qualche modo ispirato diversi artisti della passata e della nuova generazione. Fra i musicisti più interessanti, tra l'altro l'ho anche conosciuto, non abbiamo suonato insieme ma abbiamo trascorso delle belle giornate insieme in un festival in Italia diversi anni fa, c'è questo bassista di origini africane ma molto quotato, vive a New York, ha lavorato con Joe Zawinul e con tanti grandissimi musicisti, si chiama Richard Bonat. E Richard Bonat mi raccontò proprio che era appena tornato dal Brasile e anche lui rimase molto colpito dal fascino soprattutto delle belle ragazze brasiliane. Perché le ragazze brasiliane hanno questa, come dire, questa facilità di sex appeal, come posso chiamarlo? Perché sono generose, perché sono delle ragazze che hanno un atteggiamento nei confronti dell'uomo particolarmente aperto, di grande simpatia. Non andiamo adesso sullo stupido dettaglio erotico. No, sessuale. Assolutamente no. Però la donna. Anche se vedo Francesco Tromba molto interessato all'argomento. Beh, del resto, insomma. È calabrese. Appunto. E le donne brasiliane hanno questo atteggiamento anche di particolare attenzione nei confronti dell'uomo. C'è il momento dell'approccio che è sicuramente un momento che ci dà grande piacere, ma poi quando noi cominciamo a conviverci, quando cominciamo ad avere un rapporto un po' più importante. Sono come le altre? No, ecco, no, io trovo che le ragazze brasiliane considerino il matrimonio non un punto d'arrivo ma un punto di partenza e il loro compagno una persona da valorizzare, da apprezzare, da tenere con cura. No, non ho capito però esattamente come la pensi sull'argomento. Poi un giorno te lo dico. Ah, ok, va bene, si tiene molto diplomatico, no? Proprio perché ha rapporti stretti con il Brasile, non so, con le ragazze brasiliane. Con tutti. Grazie. Tromba, tu invece con questo nome, con le ragazze brasiliane, come ti approcci? Sinceramente non ne conosco nessuna, magari se me ne presenta qualcuna. Beh, il prossimo viaggio che fa Max. Prendi sto numeretto qua. Che cos'è? Devi fare, no, è prefisso, poi chiami. Boh, non lo so, cose calabresi brasiliane. Richard Bonat arriva al soundcheck di Radio 24 con Maniaca o Brasil. E dal suono del basso elettrico di Richard Bonat qui al soundcheck a quello del basso elettrico di un signore svedese, un bravo musicista, Jürgen Attig, che ha realizzato per la Sony un album intitolato Aventureiro per celebrare il suo mito Jacob Astorius. Però fra i vari brani che Jürgen Attig ha dedicato a Jacob Astorius ce n'è uno che spicca, ovvero proprio la title track Aventureiro, brano dal sapore molto brasiliano. E infatti per questo motivo ha coinvolto il vocalist Ronaldo Nascimento. Adesso non so se Max De Tomasi conosce questo Ronaldo Nascimento fra tutti gli artisti che incontra quando va in Brasile. È il figlio di Ronaldinho e di Edson Arantes do Nascimento, Pelé, insomma, no, adesso scherzo. No, secondo me è un artista come ce ne sono tanti, un bravo cantante, tra l'altro da quello che mi sembra di capire, insomma, è un album molto votato al jazz, a quella musica brasiliana d'autore tipo Flavio Venturini o Ivan Lins. Mi piace moltissimo. Mi incuriosisce il fatto che un appartenente alla religione Ikea si sia in qualche modo convertito al brasilianismo, no? Però del resto essere brasiliano uno non lo vede sul passaporto, è uno stato d'essere. Però è un musicista, i musicisti viaggiano e sono sempre molto aperti. È vero, assolutamente. Quanto è brasiliano musicalmente il repertorio italiano oggi? Beh, veramente ci sono tantissimi artisti italiani che si mescolano con la musica brasiliana, che per esempio includono all'interno del loro gruppo musicale dei musicisti brasiliani, soprattutto dei percussionisti, tu poi lo sai molto bene. Anche dal punto di vista poetico gli italiani stanno cominciando a guardare a quello che in Brasile viene scritto, viene realizzato, perché il vocabolario musicale brasiliano è sempre in continua evoluzione. Mi dispiace constatare la povertà attuale della musica italiana dal punto di vista poetico, quando noi poi abbiamo insegnato ovunque nel mondo. Quali sono gli artisti italiani più brasiliani? A parte la Mannoia, lo sappiamo che tra l'altro sì, ha comprato, credo, casa a Salvador Gibaia. Beh, sicuramente sì, la Mannoia c'ha casa a Salvador, forse ospiterà anche Gal, che ne sai. Ah, non si sa mai, non si sa mai. E, no, penso un artista brasiliano, italiano molto brasiliano, è Lorenzo Giovanotti, che conosce il Brasile da tantissimi anni e che si è voluto sdebitare nei confronti di Sergio Mendes quando prese la campionatura di L'Ombelico del Mondo dall'album Brasileiro, un album che fu storico perché vinse il Grammy Award come miglior album world music nel 93. Da quel momento Giovanotti ha sempre guardato al Brasile, ma ce ne sono tantissime. Lo stesso Bungaro, che è un eccellente interprete e grande autore, canta un po' la brasiliana e scrive con questa freschezza brasiliana. E poi abbiamo delle bravissime cantanti come Barbara Casini, che è anche un eccellente chitarrista, proprio esperta, forse è anche considerata in Brasile una interprete di prima grandezza. Molto rispettata, soprattutto per l'attenzione che i brasiliani hanno nei confronti della loro lingua, no? Al contrario di quello che succedeva qui da noi negli anni 60, quando sentivamo Polanca che cantava in un italiano davvero improbabile, oh Diane, solo tu mi sorprendi sempre. E in Brasile sono un po' contrari alla pronuncia sbagliata. Quando sentono cantare Barbara, invece, tutti quanti si alzano in piedi. E la nostra Greta Panettieri? Greta, io sono innamorato di Greta, che devo dire? Cioè, per me è il massimo. Greta, lo dico così, anche se non va a mio favore, perché di cantanti in trasmissione ne abbiamo ospitate tantissime. Quando viene Greta a Brasile, io piango quando sento le sue canzoni, quando lei canta in portoghese. È un genio. Allora, Jürgen Hattig con Aventureiro al soundcheck di Radio 24. Pois o tapete então eu viajei. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Non poteva mancare una composizione di Antonio Carlos Jobim, Felicidade, nella versione della pianista bellissima, cantante, compositrice Eliane Elias, e la partecipazione, l'avrete sentito, del sax tenore del compianto Michael Brecker. Siamo ai saluti, io ringrazio Max De Tomassi per essere stato con noi, ti auguro una eccellente trasmissione questa notte dopo la partita dell'Italia lì su Radio 1 per Brasil, e spero di venirti a trovare presto. Quando vuoi, ci sentiamo stanotte dopo la partita. Assolutamente sì. Allora vorrei chiudere con un altro artista che dopo un viaggio in Brasile, anzi durante un viaggio in Brasile, è rimasto talmente affascinato dall'atmosfera, dai musicisti e dalla musica, che decise di noleggiare uno studio di registrazione, di radunare alcuni amici brasiliani e anche degli eccellenti strumentisti che lo raggiunsero da New York e da Los Angeles. Questo signore si chiamava, perché purtroppo è scomparso l'anno scorso, George Duke, in questo brano che è un po' il manifesto della sua passione per il Brasile, intitolato Brazilian Love Affair. Grazie a Max De Tomassi, grazie a Francesco Tromba, oggi sei stato lì nell'angoletto ad ascoltare affascinato tutte le chiacchiere di Max. Sì, in realtà ho anche un po' di tensione per la partita. E infatti lo vedo, però con la maglietta targata Baggio. Di che anno è questa maglietta della nazionale? Purtroppo è di USA 90. 94. Vabbè, ma ci rifaremo questa sera con l'Inghilterra. Allora andiamo avanti con la nostra nazionale. Noi ci risentiamo domani alle 15.30 per la prima parte del soundcheck, poi la seconda parte a partire dalle 19. Quindi a tutti voi buona serata, che vinca il più forte, ma che vinca l'Italia, questa è la cosa importante per noi. Un abbraccio e buona musica da Giorgio Telespo. Stay.